Meier chi andrà, lo sparizio sopri me. Io sono Monsieur de Gascogna, chi fa segno il buon nozio, che a mano tiene l'odar. A sa maior carino ca, intraprimerà il mortal. Semblos de tantas roncas, cascando la zanda tra. Cosa bonica, cosa grana. Ya li di al buen monsieur, al portal no tiene nada. Se sentara la portella, la portella, y entre primero al portal, la portal, la portal. Thank you.